Zucchero filato all'ananas, gianduia al limone, caramelle. Una ragazza zucchero viscosa spala spatolate di fondenti per un fratello cristiano. Per una festa scolastica. Fa male al pancino. Fornitore di confetterie di Sua Maestà il Re. Dio salvi il nostro. Assiso in trono a succhiar giuggiole rosse fino a che non diventano bianche. Un cupo giovanotto dell'IMCA, allerta tra i caldi vapori dolci di Graham Lemon, mise un volantino in mano a Mr. Bloom. Parole da cuore a cuore. Blu, me, no. Blood, sangue dell'agnello. I suoi lenti piedi lo incamminarono verso il fiume, mentre leggeva. Siete salvo? Tutti son lavati nel sangue dell'agnello. Il Dio vuole sacrifici cruenti, nascita, imene, martire, guerra, fondazione di un edificio, sacrificio, rognone, olocausto, aree druidiche. Elia viene, il dottor John Alexander Dowie, restauratore della chiesa di Sion, viene, viene, viene, viene. Tutti benvenuti. Un lavoro che frutta. Torri Alexander l'anno scorso. Poligamia. Sua moglie ci penserà lei a farla finita. Dov'era quell'inserzione di qualche dita di Birmingham? Il crocifisso luminoso. Il nostro Salvatore. Svegliarsi nel cuor della notte e vederlo sul muro appeso. L'idea del fantasma di Pepper. Il nostro re inchiodato. Deve essere fatto col fosforo. Se si lascia un pezzetto di baccalà, per esempio. Si vedeva benissimo col colore azzurro-argento, la notte che scese in cucina per andare in dispensa. Sgradevoli tutti quegli odori che ti aspettano lì per saltarti addosso. Che cosa voleva? Uvetta di Malaga, pensavo alla Spagna, prima che nascesse Rudy. La fosforescenza, quell'azzurrino verdastro, ottimo per il cervello. Dall'angolo della casa monumento nazionale di Butler dette un'occhiata lungo Bachelor's Walk. La figlia di Dedalus è sempre là fuori, davanti a Dillon, vendite all'asta. Starà cercando di vendere qualche vecchio mobile. Riconosciuti subito gli occhi, quelli del padre. Gironzola intorno aspettandolo. La famiglia si sfascia sempre quando non c'è più la madre. 15 figli aveva, una nascita all'anno quasi. E nella loro teologia, se no il prete non dà la confessione, cioè la soluzione alla poveretta. Crescete e moltiplicatevi. Mai sentito niente di simile? Ti mangiano vivo, casa e tutto. Loro non ce l'hanno una famiglia da nutrire. Vivono della grascia della terra. Le loro cantine dispense. Mi piacerebbe vedergli fare il digiuno nero Yom Kippur. Panini dolci con il taglio a croce. Un pasto e una colazione per paura che svenisse all'altare. La perpetua di uno di quei signori, se si riuscisse a cavarle qualcosa di bocca, mai ci si riesce, come cavare i quattrini a lui. Si tratta bene, niente ospiti, tutto per il padrone. Sta attento all'urina. Portatevi il pane e burro, reverendo, acqua in bocca. Buon Dio. Il vestito di quella bambina a brandelli e ha l'aria d'essere denutrita anche. Patate, margarina, margarina e patate. Dopo se ne accorgono. Conta il risultato. Mina l'organismo. Mentre metteva piede sul ponte O'Connell, un pennacchio di fumo uscì a fungo di sotto al parapetto. Chiatta della distilleria con birra scura da esportazione. Inghilterra. L'aria di mare la fa inacidire, m'han detto. Interessante un giorno o l'altro procurarsi un permesso da Hancock per visitare la distilleria. Un vero e proprio mondo a sé. Tini di birra magnifici. E c'entrano topi. Si gonfiano a forza di bere, galleggiano grossi come un cane da pastore. Briachi fradici di birra. Bevono finché non rivomitano come cristiani. Pensa un po', bere quella roba. Topi. Tini. Beh. Certo, se si sapesse sempre come stanno le cose. Abbassando lo sguardo, vide con vigoroso palpito d'ali, roteanti fra i tetri muraglioni, i gabbiani. tempo burrascoso al largo. Se mi buttassi giù, il figlio di Re Benjane deve aver ingoiato un bel po' di quello scarico di fogna. Uno scellino e 8 pence di troppo. Straordinarie quelle sue uscite. E poi come sa raccontare una storia. Roteavano più bassi. Cercano da mangiare. Aspetta. Butto giù in mezzo a loro una pallottola di carta. Elia 32 piedi al sec, vien. Neanche per sogno. La palla ballonzolò inosservata via sul risucchio della corrente. Galleggiò sotto il ponte lungo i piloni. Mica fessi sono. Anche il giorno che buttai quel dolce stantio dall'Erenskine, l'han preso nella scia una cinquantina di metri più giù. Vivono alla giornata. Roteavano, sbattendo le ali. Il famelico e avido gabbiano batte l'ali sul lugubre oceano. Così che scrivono i poeti, somiglianza dei suoni. Però Shakespeare non ha rime, versi sciolti, il fluire della lingua, ecco, i pensieri, solenni. Amleto, io son lo spirito di tuo padre, dannato per un certo tempo a camminare la terra. 2 mele e 1 penny, 2 per 1 penny. Posò lo sguardo sulle mele lustre a ranghi serrati sul banchetto. Australiane devono essere in questa stagione. Bucce lucide, le lustra con uno straccio o un fazzoletto. Aspetta, quei poveri uccelli. Si fermò un'altra volta e comprò dalla vecchietta 2 panini dolci di bamboli per 1 penny. Sbriciolò la pasta friabile e ne buttò dei pezzettini giù nella Liffey. Lo vedi? I gabbiani piombarono giù in silenzio, due, poi tutti, dalle loro altezze, gettandosi sulla preda. Andati, fino all'ultima briciola. Conscio della loro avidità e astuzia, si scosse dalle mani la polvere delle briciole. Non se l'aspettavano davvero. Manna! A vivere di pesce, carne di pesce, son costretti. Tutti gli uccelli marini, gabbiani, tufoli. I cigni di Anna Liffey arrivano fin quaggiù a nuoto qualche volta per spollinarsi. Tutti i gusti sono gusti. Chissà di che cosa sa la carne di cigno. A Robinson Crusoe gli toccò di mangiarne. Roteavano sbattendo debolmente le ali. Ora non butto più niente. 1 penny abbastanza. E che bel ringraziamento, neanche una gracchiata. E poi diffondono l'afta epizootica. Se si ingozza un tacchino, diciamo di farina di castagne, ne prende il sapore. Mangia del maiale, diventi un maiale. Ma allora, com'è che i pesci d'acqua salata non sono salati? Come mai? I suoi occhi chiesero una risposta al fiume e videro un canotto all'ancora sulle onde melassose cullare pigramente il suo manifesto. Chino, 11 scellini, pantaloni. Buona idea quella. Chissà se paga la tassa al comune. Ma come si fa a possedere l'acqua? Sempre passa nella corrente, mai la stessa, che nella corrente della vita noi rincorriamo, perché la vita è una corrente. Tutti i posti sono buoni per gli annunci pubblicitari. Quel medicone per la goccetta era attaccato in tutti i Vespasiani. Non si vede più ora. Strettamente confidenziale, dottor I. Franks. Non gli è costato un baiocco, come a McGinn il maestro di ballo la sua autopubblicità. Li ha fatti attaccare da qualcuno, o magari li ha attaccati da sé alla chetichella, entrando a fare un po' d'acqua. Volata notturna. È proprio al posto giusto. Vietata la fissione, vietata la flussione. Qualcuno che ce l'ha infiammato. Se lui... Oh! Eh? No, no, no, no, non ci credo. Non lo farebbe, vero? No, no. Mr. Bloom avanzava, alzando gli occhi inquieti. Non pensarci più. L'una passata. La palla dell'orologio sulla capitaneria di porto è abbassata. Ora di Dancing. Che libretto affascinante quello di Sir Robert Ball. Parallasse. Non ho mai afferrato bene. C'è un prete, potrei chiedere a lui. Pare greco, parallelo, parallasse. Mette in che cosa la chiamava finché non le ho parlato della trasmigrazione. Oh, sorbe. Mr. Bloom sorrise. o sorbe a due finestre della capitaneria di porto. In fondo ha ragione. Non sono che paroloni per cose comuni, per amor del suono. Non che sia proprio spiritosa. Qualche volta è anche villana. Sbotta a dire quel che io pensavo. Eppure, non so. Diceva che Ben Dollard aveva una voce di barilottolo basso. Ha gambe che paiono barili e si direbbe che canti proprio dentro una botte. Beh, non è spirito questo. Lo chiamavano Big Ben. Non è spiritoso come chiamarlo barilottolo basso. Fame da lupo. Si spolverò un quarto di manzo. Era formidabile nel mandar giù litri di bass numero uno. Barilotto di bass. Vedi, torna benissimo. Un corteo d'uomini bianco vestiti marciava lentamente verso di lui lungo la cunetta, strisce rosse attraverso i cartelloni. Liquidazione. Come quel prete sono stamattina. Abbiamo peccato, abbiamo sofferto. Lesse le lettere rosse sui loro cinque cilindri bianchi. HELYS. Wisdom Hills. Y, rallentando il passo, tirò fuori un pezzo di pane di sotto al cartellone davanti, se lo cacciò in bocca e masticò seguitando a camminare. Nostra dieta base, 3 scellini al giorno, a camminare lungo i marciapiedi, una strada dopo l'altra, appena da tenere insieme anima e corpo, pane e acqua calda. Non sono quelli di Boyle, no, quelli di McGlade, e non serve nemmeno ad attivare il commercio. Gli avevo suggerito un carro pubblicitario trasparente con due belle ragazze sedute all'interno a scriver lettere, quaderni, buste, carta assorbente. Scommetto avrebbe fatto presa. Belle ragazze che scrivono qualcosa attirano subito l'attenzione. Tutti muoiono dalla voglia di sapere che cosa scrive. Guardate nel vuoto e subito ne avrete intorno 20. Mania di impicciarsi di tutto. Le donne, poi, curiosità. Statua di sale. Naturalmente non ne volle sapere perché non ci aveva pensato lui per primo. O quel calamaio che avevo proposto con la falsa macchia di celluloide nera. Le sue idee per gli annunci sono come quella della pasta di carne Plumtree sotto gli annunci mortuari. Reparto carne fredda. Non si possono leccare. Che cosa? Le nostre buste. Olà, Jones, dove vai? Non mi posso fermare, Robinson. Scappo a comprare la sola gomma da inchiostro di fiducia, la Cancel, in vendita da Hillis Limited, 85 Dame Street. Meno male che ho piantato quella gente. Dannato lavoro quello di riscuotere i conventi. Il convento, tranquilla. C'era una monachina simpatica, un bel viso dolce. Il soggolo stava benissimo a quella sua testina. Sorella. Sorella. Aveva avuto dispiaceri d'amore, si vedeva dagli occhi. È un affaraccio mercanteggiare con quel tipo di donne. La disturbai mentre faceva le devozioni quella mattina, però felice di comunicare col mondo esterno. Il nostro gran giorno, disse, festa di Nostra Signora del Monte Carmelo. Dolce nome anche, Caramello. Sapeva, mi par che sapesse dal modo come. Se si fosse sposata sarebbe cambiata. Credo che veramente fossero a corto di quattrini. Però friggevano tutto lo stesso con burro di prima qualità. Niente strutto per loro. Il mio cuor sarà distrutto se mangerò lo strutto. Gli piace a loro imburrarsi da tutte le parti. Molly lo assaggiava con la veletta alzata. Sorella, Pat Claffey, la figlia dell'usuraio, dicono che è stata una monaca. A inventare il filo spinato. Traversò Westmoreland Street dopo che fu passato lentamente S, apostrofato. Il negozio Rover di biciclette. Oggi ci sono quelle corse. Quanto fa è stato? L'anno che morì Phil Gilligan. Si stava in Lombard Street West? No, aspetta, ero da Tom. Mi impiegai da Wisdom Hillis l'anno che ci si sposò. 6 anni. 10 anni fa. Lui morì nel 94, sì, è giusto. L'incendio di Arnott. Val Dillon era sindaco. Il pranzo Glencry. L'assessore Robert O'Reilly vuotò il porto nella minestra prima dell'amaina bandiera. Bob, ci si lubrificava l'interiore di assessore. Non si sentiva cosa suonasse l'orchestra. Per quel che abbiamo già ricevuto, possa il Signore renderci. Millie era una bambinetta allora. Molly aveva quel vestito grigio talpa con gli alamari di cordoncino, un tailleur con bottoni della stessa stoffa. Non le piaceva perché m'ero storto una caviglia la prima volta che le indossava, alla merenda della società corale al pan di zucchero. Come se quello. Il cilindro del vecchio Goodwin è riparato con una specie di nastro adesivo. Una merenda per le mosche anche. Non ha mai avuto addosso un vestito così. Le stava come un guanto, spalle e anche. Cominciava a farsi un po' pienotta. Un pasticcio di coniglio ci mangiamo quel giorno. Gente che si voltava a guardarla. Felice, più felice allora. Era una stanzetta comoda, con quella carta rossa alle pareti, carta Dockrell, un uscellino e 9 pence la dozzina. La sera del bagno di Millie, sapone americano avevo comprato al Sambuco. Che odorino l'acqua del suo bagno. Buffa era vederla tutta insaponata e poi ben fatta. Adesso il ramo fotografia, lo studio di daguerrotipia di cui mi parlava il povero babbo. Gusti ereditari. Camminava sull'orlo del marciapiede, corrente della vita. Come si chiamava quel tale con la faccia da prete che sbirciava sempre dentro quando passava? Occhi deboli, da donna. Si fermava da Citron, St. Kevin's Parade. Pen qualche cosa? Pen Dennis? La memoria mi si... Pen? Certo, sono passati parecchi anni. Il rumore dei tram, probabilmente. Beh, se non riusciva a ricordare neanche il nome del capocronista che vedeva tutti i giorni. Bartel Darcy era il tenore, che cominciava allora a farsi avanti. La accompagnava a casa dopo le prove. Tipo presuntuoso, con quei baffi impomatati. Le dette quella canzone, Venti che soffian dal sud. Che serataccia di vento. Quando andai a prenderla c'era quella riunione della loggia per quei biglietti di lotteria, dopo il concerto di Goodwin nella sala dei banchetti o dei ricevimenti del municipio. Lui e io dietro. Un foglio dello spartito mi volò via di mano contro la cancellata della scuola media. Meno male che non. Una cosa del genere le guasta tutta una serata. Il professor Goodwin avanti era agganciato a lei, tremulo su quegli stecchi di gambe. Povero vecchio rimbambito. I suoi concerti di addio. Assolutamente la sua ultima comparsa su un palcoscenico. Forse per qualche mese, o forse per sempre. Me la ricordo che rideva al vento. Col grande bavero rialzato. Angolo di Arcus Road, ti ricordi che colpo di vento? Bruff! Le fece alzare tutte le sottane e il boa per poco non soffocò il vecchio Goodwin. Era tutta rossa per il vento. Mi ricordo quando si rientrò che mi mise a ravvivare il fuoco e a friggere per lei quelle fettine di sella di castrato con la salsa chutney che le piaceva tanto e il rum caldo. La vedevo in camera da letto dal caminetto. Che si slacciava il busto bianco. Il fruscio e il tonfo che il busto fece cadendo sul letto, sempre con un po' del suo calore. Le faceva sempre piacere cavarsene fuori, seduta lì, dopo, fin quasi alle 2, a tirarsi via le forcine. Millie a nanna nel suo lettino, felice, felice. Fu la notte che.